Ricordate, dovete individuare i numeri non divisibili per 2. Tra 1 e 10, quali numeri, se divisi per 2, lasciano sempre un resto? Pensate al nome che si dà comunemente a questo tipo di numeri.